tanto come Duccio. Vedete, va a fare. Cosa sta cercando di fare? Di migliorare l'uscita? No, no, non è quello, no. È la dimensione, più che altro il coso. In pratica quello che alimentare il coso. Il 2009 sono perché non lo accendo. Ecco qua. Vediamo un po' se funziona. Ora. Ok. Adesso già mi sento. C'è qualcuno che voleva entrare, avanti. Boh, ha fischiato sotto di te. Va bene. Avanti, chi vuole entrare? Ora pronobis. Gesù, cosa ho fatto? San Pantaleo, ora pronobis. Attone, stavo andando a cercare le immagini dell'Alan 87. Ho messo Google immagini, però anziché che scrivere Alan 87, ho scritto Anal 87, non dico cosa mi è uscito. Me lo immagino già. È l'abitudine. Maniaco. Adesso ci vuole lo speed. Sono andati a far pensare per l'Italia, che poi passano a VPN e non serve niente. Uno. Ula, ula, ula. Mi viene anche bene a me, con questa ecco qua. Dove ti devi? Quella volta. No, è la messa, cazzo, è la messa. Tutti le mani nelle palle. No, a cosa alludi, aspetta. Tempo fa con lo Sabolenco, te lo ricordi? E lo dico, sapevo fare la voce di Papa Voitila uguale, precisa identica, cazzo. Ah, vabbè, no, non me lo ricordo, Antone, è passato tempo. Comunque ancora non ho visto l'apparato, aspetta che lo cerco. Lo cerco bene stavolta. Cerca trova. Sì, è quello che pensavo io, l'apparato, sì. Lo sai che mi hanno, cioè, ci hanno, no, messo a tutti. Quei famosi che ti avevo detto, ce li hanno bloccati nella carta, non possiamo utilizzarli per il momento, capito? Non sai che ci compriamo a casa, un appartamento, quello che è, una moto. Ah, bloccato i soldi del... vabbè, bloccati, cioè vi vogliono poveri, cioè ci vogliono poveri. Sì, puoi liquidare un tanto, ma non più di quello, non più di quel tanto, capito? Quindi, cioè in pratica quello, ciò che rimane è cumulabile al mese dopo, hai capito? Se la studiata bene, dice, perché ci sono i furbetti adesso, hai capito? Cosa che magari si comprino la droga, hai capito? E poi vanno a prenderla, eccetera, eccetera, oppure si compra qualche moto, qualcuno. Se la studiata bene, se la studiata, cioè se fai una cosa, cazzo, o glieli dai, o se no cazzo glieli dai a rate, no? Aspetta un attimo, Antonio, controllo una cosa. Allora, l'anno 87, guarda, dalla disposizione dei controlli, dalle bande, dal fine course, ha quattro selettori deviatori levette, da, ecco, di là. A me sembra un 3009, c'è pure lo stesso Smitter. Non è che la scheda è quella del 3009, no? Adesso guardo. È uguale. Manco detto. Manco detto, quindi ha un EPT 3006, e beh, ottimo, è come avere un 3009, un Pluto o roba del genere. Vabbè, il Pluto ha il frequenzimetro, però la scheda è quella, e quindi sì, è quello che ricordavo io. Certo, un po' tutto grigio, sai, non aveva cromature, però caspita, in che anno lo vendevano questo? Fine 90, metà 90? Non lo so la verità, comunque sia, si può togliere il 21, cioè si può lasciare il 21-66, togliere il 19-69 e mettere il 4-77 come finale. In pratica ti dà intorno ai 30-40 watt uscita, figurati tu. Perché io ho lo schema per poter fare questa inversione, capito? Cioè, in pratica vanno modificati due piedini, cioè quello di destra va a sinistra, quello di sinistra va a destra, hai capito? E ti dà 40 watt, ti dà, come apparecchio. Sì, poi stavo guardando i controlli, sostanzialmente è come un 3009, gli hanno aggiunto in più l'effetto eco e la potenza regolabile, che il 3009 non ha. Poco uomane. Io, più o meno sì. Allora, l'effetto eco è nato in questo apparecchio qua, originale suo, questo non è l'originale suo, questo è un effetto... L'effetto eco vero e proprio è come quello del 2009, cioè del 2009, del Saturn Echo, capito? Quindi in pratica, vabbè, più o meno uguale, non è una cosa del genere, basta saperlo regolare e va bene lo stesso. Allora ti vuole entrare? Guardate chi voleva entrare, cazzo, ma con la voce riconosce più. Ciao Klaus, salve, tu ne hai sentito, no? Più che altro non è che conosco la voce, è che stavo facendo la regolazione di questo eco qua. Prima fischiava, sembrava un treno come un coso, adesso almeno è decente, più che altro, hai capito? Io non sono come coso che sa regolare l'effetto, come si dice, ciucucciù, che poi non me ne fai capire niente, la verità. Quindi va bene, per me va bene così l'effetto, ecco, come basso, in modo che non può parlare nessuno, eccetera eccetera, niente da fare come i camionisti, li senti, sembrano dei cani imbastarditi, sembrano. Bravo, bravo Antone, va bene, va bene. Stavo girovagando, vi ho sentito. Ciao anche a Marco, buonasera. Se mi accoppiate, avanti Marco. Eia, ciao Claudio, ben entrato. Io ti ho riconosciuto subito, appena detto cocomane. Ben sentito, dai. Io sto utilizzando al momento un portatile con batterie, vabbè, l'antenna esterna, è un portatile vecchio di 40 anni, vabbè, quasi, 39 anni, è passabile? C'è una modulazione fantastica, molto molto bella, il segnale è molto buono, è 9+15, ma la radio è favolosa, molto molto presente, molto chiara, bella grossa come piace a me. Beh, magari grossa no, e io ho la voce di Topo Gigio, lo sai, quindi, però ancora funziona, dai, e c'ho tutto, e anche la valigetta, tutto quello che c'era all'inizio, e questo è il Maxcom 7, non so se te lo ricordi, l'ha avuto Pomponio, l'ha avuto, vabbè, alcuni l'hanno avuto, e ancora va, e addirittura con batterie, poi il resto è aiutato, dai. No, già lo conosco. Lo conosco, io sono collezionista, ne ho avuto portatili, lo conosco molto bene, ti dirò un buonissimo portatile. Va bene alla grande, dimmi invece questa vecchia baracca, sta sempre andando, sì? Sì, e ti dirò che ti sento un po' meglio di altre volte, certe volte eri al limite dello strappo, no? E... adesso è più chiara, ma ti dirò che sento più chiara anche Antonello con questo apparato, c'è una bella timbrica anche ricezione sto portatile. e adesso lo sto utilizzando addirittura con la custodia originale, per non lasciarlo nudo, che il bianco è un po', è un bianco sporco ormai, capito? Ha perso la lucentezza delle plastiche originali. Va bene, riprendi Claudio e poi per Antonello. No, va bene, lascialo così, non lo cannibalizzare, lascialo in originale che funziona perfettamente. Sì, beh, qualche volta mi hai sentito così, magari avevo le regolazioni dell'SSB, capito, perché questa radio la uso solo 10 metri, però a volte la faccio andare anche in AM, e quindi magari mi dimentico di mettere bene le regolazioni, adesso le ho regolate. Riprendi Terantone, dai, io vi ascolto volentieri, che sono arrivato adesso, che ero fuori e mi devo sistemare alcune cosette, ma sono qua comunque, vi ascolto volentieri, vai Antonio. Io l'acqua non c'è problema, cioè mi ripete una cosa, sai che cosa, Claudio? Che in pratica la frequenza dove parlate voi, cazzo, addirittura ci sono le ragazzine di 7-8 anni, 10 anni, che trasmettono, cazzo, quando me ne attivo, cazzo, le palle. Se dove è fatto le patette di un cazzo, da fuori. Io ho visto l'altro giorno il video su Facebook e mi sono messo la mano in testa, gli ho detto che cazzo, a un certo punto che cazzo me lo fa fare, è da me, ti pigliamo il patentino, quando entrano queste ragazzine, cazzo, che hanno 10-12 anni, forse anche di meno, entrano con un attivo magari del padre, cazzo. Senza avere nessuna facoltà che ti poter entrare, il discorso è quello. Non lo so, adesso sembra liberi tutti e siamo a posto. No, Antonio, il fatto è che lì in continente sono molto più avanti di noi, sinceramente. Molti figli che sembrano piccoli, anche io un giorno mi sono incasinato, sembrano piccoli dalla voce, ma non sono così piccoli. Sono 17enni, 18enni, capito? E c'hanno un nominativo, capito? Pure hanno come secondo operatore, poi non so come cacchio sia, magari hanno patentato una licenza, o viceversa, non lo so. Comunque ce ne sono parecchi in continente così. Per esempio, se tu senti a Franca, non so se l'hai mai sentita, dalla voce sembra una ragazzina, invece è ultra quarantenne, capito? Ultra quarantenne, è la figlia di un vecchio radioamatore, tutto qua. Vabbè, ma non ce l'ha fatti nulla. Ognuno faccia quello che vuole e si prende la propria responsabilità, se la fa tanto me. Dai, che mi allontano, già vi sto ascoltando, vai Marco. Cappa, Antonio, io sapevo qualcosa però, che tu potevi modulare da una stazione del radioamatore, purché indicavi il nominativo della stazione stessa e al limite il tuo nome era operatore, però non mi ricordo se comunque devi avere una tua patente, ma non avrebbe senso allora lì specificare il nome dell'operatore, del titolare della stazione, cioè non il nome, nominativo, ma mi pare che sia prevista una cosa del genere, però non essendo radioamatore non mi ricordo bene. Antonè, riprendi. No, Marco, devi aver conseguito l'esame e devi avere già la licenza, capito, senza nominativo. Quindi puoi trasmettere per dire qua, apro io il tuo QSO come IS0 DFB e chiudo io. E lui usa il mio nominativo come secondo operatore Giovanni, capito? Però devi aver già fatto gli esami in attesa di patente, devi avere la licenza. Ah, ecco, in attesa di patente, ok. No, perché io mi ricordo i racconti del buon Natalino, lui diceva che da casa di questo radioamatore lui ogni tanto faceva di ex manda amatoriale, però presumo che fosse il periodo dove lui sosteneva la patente, o lui per tre volte l'ha tentata la patente, credo, e adesso magari ricordo male io. Sì, cosa c'entra? Noi andavo a casa di un altro, usava il nominativo, dalla voce fai di ex chi casina futti. Certo, se fai questo locale a 5.25 col mio nominativo se ne accorgo che non sono io, no, è normale. Quello non c'entra niente, Marco, l'abbiamo fatto tutti. Non c'è problema, però per quanto riguarda la cosa. fa è così, devi aver fatto l'esame idoneo, già ti mando la licenza in attesa del nominativo, puoi trasmettere come secondo operatore da casa mia, col mio nominativo, capito, IS0 DFB, in operatore Marco, capito, secondo operatore Marco, lo devi specificare perché ti mettono al log e devono saperlo, tutto qua. Va bene, dai, vi lascio, ci sentiamo dopo, vai Antone. Sì, no, siccome questa ragazza lì ha fatto il video, non ci aveva aspetta che ci aveva, la verità, comunque sia. Trasmetteva il nome di quello lì, ma non è italiano, hai capito? Quello ti voglio dire, cioè sembra che l'Italia sia a un certo punto, cosa ti posso dire? Tu devi fare per forza così in Italia e noi invece fuori facciamo quello che vogliamo, in pratica ci mettiamo i nostri figli, in pratica posso di modulare io, modula mia figlia, con nominativo mio, il discorso è quello, hai capito? Tutto lì, quello ti volevo dire, perché è così, sono fatto così, cazzo, dato giorno, ha fatto il video e sono rimasto secco, sono rimasto, cazzo, non ci ho fatto cazzo, non è una bambina di neanche 12 anni, vede e si fa di ex, non è una cosa normale, cazzo, a un certo punto. O siamo scemi noi, cazzo, in Italia, e fuori in Europa, cazzo, fanno quello che cazzo vogliono, oppure siamo macchi di un dutto noi, discorso è quello. Infatti così, hai detto bene. A noi non ci è concesso niente, a loro gli è concesso tutto, capito? E quindi è così, vabbè. Lasciano a futti, io viaggio per la mia strada, non c'è problema, degli altri me ne sbatto altamente le balle. Vai, ci sentiamo dopo, vai Marco. Aspetta un attimo! Ma Claudio, un secolo che non ti sento, scusate l'entrata così a gamba tesa. Ciao Claudio, Marco e Antonello. Vai Claudio. Ciao, ma sono giù, mi stavo girando un po', spazzolando, ho sentito loro, sono entrato a salutare, io oramai mi sono un po' assentato, mollato, però diciamo che sia la radio che tutto il resto già c'è, questa è l'antenna dei 10 metri, però già funziona anche in 11, non è un problema. Grazie per essere entrato a salutarmi Giulio, ti lascio che devo fare delle cosette per domani, se no mi dimentico ed è un casino che c'è gente domani. Riprendi e fai girare. Ok, ciao Cla, è stato un piacere ascoltarti, almeno per un brevissimo istante, comunque avremo modo di risentirci. Comunque con quell'antenna va bene, quasi Santiago Novo, qua mi stai segnando con lo strumento a barrette, per cui va benissimo, non c'è problema. Avanti Marco. Via, ciao Giulio. Ciao Giulio, ben sentito. Eh sì, dopo tanto è entrato Claudio a salutare, abbiamo scambiato due chiacchiere e quindi è probabile che sì, in altri paesi sia un po' più, la legislazione sia un po' più flessibile, naturalmente per eventuali casini combinati dal figlio, dal minore, al limite poi già ritirano la patente al padre, Antonè, capito? Non credo, non lo so, era bella tranquilla parlando, eccetera, eccetera, è entrata con l'omerativo, si è fatto il video su Facebook, si è fatto, figurati tu, c'è una che si fa il video su Facebook e si fa il DX, eccetera, eccetera, secondo te, problemi c'è, se l'ha fatto ieri, se l'ha fatto, ma è che non ce l'ho adesso, però l'ho visto ieri, gli ho detto, cazzo, detto, se dovessi metterci, detto, mia nipote, a fare una cosa del genere, minimo mi arresta la meglio, qua sa, sai. No, invece, parlava l'inglese, non ne fottevo, era una tipa tranquilla, boh, entrava con un nominativo del padre, bella tranquilla, boh, non ne fregava niente. Beh, comunque se lì la legge lo permette è buon per loro. Adesso mi hai ricordato una cosa Antonè, allora il film Contact è un film di fantascienza del 90, è un bel di anni fa, ma del 90, e inizia così, con la figlia di un radioamatore americano che, sempre specificando il nome della stazione del padre, entrava a fare di ex e si presume sia legale anche lì. Poi siamo detto che parlava inglese, quindi vabbè, tutti parlano inglese, ma da amatoriale per i DX. Ma potrebbe essere proprio America quella, Stati Uniti. E Giulio, riprendi. Ehi, ok. Ciao di nuovo, Marco, e ciao di nuovo Antonello. Sì, adesso volevo fare una piccola domandina ad Antonello. Antonello, tu fai parte del gruppo di Alghero? Sì. Meglio così, anch'io. Anch'io e qualche altro anche qui di Sassari. Va bene, va bene. Marco, perché non ti fai iscrivere anche tu al gruppo di Alghero? Così possiamo allargare ancora di più il gruppo, che è composto da 45, mi sembra, membri, se ricordo bene, o giù di lì, dai, siamo più o meno su quel numero lì. Giulio, però sì, grazie per l'offerta, però io dico la stessa cosa che ho detto l'altro giorno. Qua non si tratta di fare gruppi su Facebook, su WhatsApp o dov'è, si tratta di metterli a sedere sulla sedia e entrare in radio nel 27, perché mi pare che questi giorni era deserto da tutte le parti, 10, 12, 15, quello che è, non ho sentito un'anima in questi giorni. E soprattutto non ho mai sentito Alghero entrare qua, la ruota di Alghero qua non l'ho mai sentita, l'ho sentita sporadicamente, una volta due, forse sul 15 o sul 14. Cioè, inutile fare gruppi e poi entrano a parlare in chat su internet, bisogna entrare in radio, chi veramente è interessato alla radio, poi. Sì, no, aspetta, voglio chiarire un fatto molto importante, quello di oggi, siccome si parla sul canale 15, però in questi giorni era proprio assolutamente impossibile poter parlare sul canale 15, in quanto era pieno, ma pieno, non ti dico quanto, di QRM. Tu pensa che mi hanno detto che loro di Alghero a breve distanza, se non mettevano un po' di potenza, non riuscivano a sentirsi nemmeno loro. Ti puoi immaginare? Comunque il canale 15. Allora, sì, 15, una volta anche sul 14 hanno parlato, proprio per quel problema. Anche qua, quasi praticamente tutti i giorni di propagazione arriva questa portante che ha un segnale variabile tra l'8 e il 9, sì, più o meno, tra l'8 e il 9, ed è una portante strana, dove sente una specie di accozzaglia di voci tutte assieme, che però non sono nemmeno in FM, è come se fosse in AM, però una accozzaglia di voci indefinita che però copre tutti gli altri. Infatti è probabile che sentino Alghero, tra di loro a malapena si sentiranno, cioè tra di loro si sentiranno, però qua a Sassari sarebbero coperti. Comunque grazie a Dio canali ne abbiamo un bel, si può utilizzare anche 14 o quello che vogliono loro, ecco. Certo che sì, no, quello sì, Marco, no, ma è tutto con la costaglia di voci che senti, è l'effetto della propagazione praticamente, anzi sentirai degli impulsi continui, c'è cioè per quello di portante che varia, proprio come stavi dicendo tu, 8-9 di QRM, dunque se quello d'Alghero arriva a Santiago 6 o se ci arrivo io per dire Santiago 5-6, là non mi potranno mai sentire, visto e considerato l'intensità forte del QRM, e questo è normale, però di tanto in tanto già si spostano anche su altri canali, ad esempio quando è avanti ieri mi sembra, erano sul 37, l'altro giorno erano sul 13, perché essendoci tutto questo bailame di QRM, ripeto, nemmeno loro fra di loro riescono a sentirsi se non mettono un pochino di potenza, non so da cosa sia dovuto, comunque il fatto sta che è questo il problema. Va bene, avanti Antonè. Sì, su 15 è un casino, la verità è un casino su 15, non si può modulare, c'è solo QRM, ma non c'è altro. Poi per poter parlare devi usare o il 15, cioè o il 15, o il 14, oppure il 10, il discorso è quello lì. Infatti un amico di Alghero è venuto qua a Sassari da me, ci siamo incontrati, abbiamo fatto una birra, e così, loro hanno quei problemi su 15, non è come Sassari, hai capito? Ma comunque lo sento anche io da qua, quel problema lì su 15. Questo segnale 9910 di tipo propagazione, sovramodulazione, vale un coso, vale. Comunque c'è un sacco di casino adesso su questa cazzo di frequenza, perché cazzo ci sono i russi che stanno rompendo le palle, hai capito, mandano segnali strani, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto non si capisce più un tubo, capito? Sì, appunto, è quello che stavo dicendo. È un momento un pochino particolare per quanto riguarda il rumore di fondo che si sente così forte. Non capisco per quale motivo, il fatto sta che è così. In effetti diciamo che la propagazione in 27 è durata quasi tutto l'anno, o quasi, a giorni magari alterni qualche volta, però la propagazione tutto sommato c'è sempre stata, perlomeno io la sento sempre, sul canale 11 soprattutto è una cosa interminabile, c'è sempre, tutti i santissimi giorni, rari momenti che non la sento, Marco, sul canale 11 la propagazione, naturalmente io non ci posso entrare perché non capisco l'accidente e quello che dicono, per cui non ho, magari non mi sentirebbero nemmeno, non lo so, questo non lo so, loro poi si usano delle potenze un pochino alterate, questo non te lo so dire, Marco. Ah, quelli sono gli americani del Super Bowl, così lo chiamano. Sì, li sento sull'11, alle volte sul 9, sul 6, ma quelli sono kilowattari. Poi hanno sempre tutti lo stesso modo di parlare, hai visto? E finiscono col solito bye bye bye, no? Sembrano tutti fatti con lo stampino, vabbè. No, quelli vanno a kilowatt, Giulio, non vanno a watt, vanno a kilowatt. Sì, ma evidentemente lì nel loro paese è consentito utilizzare certe potenze, certamente non qui da noi, non qui da noi, lo sappiamo benissimo, noi siamo troppo corretti a riguardo di questo particolare qua. Quelli evidentemente gli è concesso e lo fanno, poi se disturbano il vicinato o meno, questo non te lo so dire, so solo che non arrivano qua e magari a noi non ci sentono nemmeno, o non le facciamo nemmeno solite con la nostra portante. Pazienza, comunque c'è anche qualche altro di Sassari che appartiene sempre a quel gruppo già da mesi, anzi più di qualche altro, anche un radioamatore, se non faccio il nome, ma c'è anche un bravissimo radioamatore di Sassari. Ho sentito appena appena qualcuno che aveva o breccato, vediamo, o Antonello ha fatto bianco. Antonello, eri tu? No, sono qua, ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora forse un break, avanti che vuole entrare. No, non pervenuta, vabbè. Ok. Sì, vabbè. Però appunto provare a entrare in radio, che ne so, fare ruota comune, in modo da. E che poi vabbè, quando si è troppi, cosa che non succederà mai, quando si è troppi è difficile far girare la ruota, perché noi già ci sopravmoduliamo, riprendiamo assieme quando siamo in 3, 4, 5, più se fossimo in 10, 15. 20, 25, 30, oh. Magari un certo numero così non succederà mai, ma più che altro, ma ad ogni modo diciamo che fanno delle prove, eccetera, tutte queste cose qua. Dai. Le solite cose che si fanno con la CB, dai, no? Niente di particolare. Poi magari c'è qualcuno che basta parlare in chat, se c'è qualcuno in ascolto può darsi che si possa sintonizzare dandogli un canale, questo non lo so, io sono un obellino appena entrato lì, per cui non ti so dire con precisione come effettivamente funziona tutto l'andamento di quel canale lì, Marco, però diciamo che è fattibile, dai, è fattibile. Poi se uno non gli piace può sempre staccarsi, no? Non è problema, no? E caspita, ci mancherebbe altro. Avanti, Antonio. Senti, ciao Monica, ricordate questo momento, perché potrebbe essere il più importante della vostra vita. Vi piacerebbe guadagnare 900 euro oggi e ricevere lo stesso importo ogni giorno? Vi bastano 5 minuti. uguale di Giorgio Meloni, quello che è. L'altro giorno c'era Elon Musk. Speriamo che non ci sia cascato nessuno. Se no, cazzo, e vedi gente che perde soldi, 250 euro. Sempre 250 vogliono, non è che vogliono 20 euro, 250. Chi era quello, Antonio? Io non ho capito un granché, non ho capito niente anzi di quello che stavo dicendo. Perché devo essere sincero, la tua radio non mi giunge bella, chiara, limpida, mi giunge un pochino così. Arrivi forte, questo sì, però non è che sia chiara la radio, non ho capito bene se era una registrazione o cosa hai fatto, boh. Adesso mi ascolti bene a me, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Sì, ti ascolto, Antonio, ti ascolto bene, ma non è che tu, nel senso che ti sento, non che ti dico ti ascolto bene perché effettivamente ti sento bene, no, non ti sento bene, ti sento e ti capisco, questo sì, però non è una voce limpida, chiara, bella, come solitamente deve essere. Tu cosa dici, Marco? Prima l'avevo detto ad Antonello, non è proprio limpido di modulazione, è come se ci fosse una lieve saturazione. L'impressione mia era quella. Aspetta che mi chiama mamma, bianco per me, vai Giulio. Sì, d'accordo Marco. Allora dopo, dai. Capito Antonio, non è che te lo sto dicendo perché non ti sento. Ti sento, certo che ti sento, capisco quello che dici, quello sì. Però la tua voce non è chiara, non è bella chiara. Io non è che pretendo che tu abbia la voce di un cantante, no, nella maniera più assoluta. Però la tua voce, come stava dicendo Marco, giunge satura, ecco, in poche parole. Se poi stai usando qualche cosa che ti rinforza la potenza, questo non lo so, sarà dovuto a quello, non lo so, ecco Antonio. No, sto usando che cosa? Lo 2007 e basta, non sto usando altro. Con effetto ecco, basta. Sarà attaccato la eco, l'eco già si sente, quindi però non è un eco diciamo chiaro, ecco, non è un eco chiaro, è una voce, però non fa niente, dai, comunque interessante che capisco quello che tu dici, poi per il resto no, non è un problema. Sì, dimmi Antonio piuttosto, ma tu da molto tempo sei fai parte di quel gruppo? Più di 4 mesi. Ho capito, come un'altra persona che mi ha detto anche lui all'incirca 4 mesi, sì. Vabbè, a me me l'hanno chiesto, mi ha detto vieni, e siccome è capitato che abbiamo modulato sul canale 13 alcuni giorni fa, no? Mi hanno detto, vuoi fare parte? Perché no? Certo, non è un problema. Se è una cosa che piace, proviamo, poi se uno non piace ci vuole poco a staccarsi, no? E così è stato, anzi io non gli ho dato nessun dato mio, non nessuna coordinata da parte mia, è stato un altro amico che gliel'ha dato tramite questo amico, appunto, poi l'altro ancora, quello che mi aveva fatto l'invito, mi ha inserito nel gruppo dove loro fanno parte, che poi non è ciò che sono tutti di Alghero, sono di diversi posti, addirittura c'è qualcuno anche di Arzachena, eccetera eccetera, Olmedo, questi posti così, insomma, ecco. Sì, quello già è vero. Quindi no, c'è così, comunque sia. E un bel nucleo la verità, su WhatsApp, quindi allora da 10 di Alghero 27 mega, allora fino a 140 messaggi, figurati tu, c'è Carlo da Parrera, c'è Carlo, poi c'è Coso, Silvia, Vanni, Guido, Giulio, cosa ti posso dire? Fanno Daniele, quello di Ittiri, già lo sai, lo conosci anche tu, quelli di Sassari, poi quello di Ittiri, ma comunque sia, eccetera eccetera, ma comunque è una cosa bella la verità, hai capito? Ci si diverte, a volte fanno le prove, escono via da casa, si portano via, cioè si portano delle antenne, fanno le prove nei punti alti di Alghero, oppure vicino a Sassa, di quello che è, fanno le prove e basta, è una cosa buona la verità. Sì, è un modo come un altro per fare Radio CB o altro, è un modo come un altro, è una cosa simpatica, così almeno la rendiamo ancora viva per quanto si riesce a tenerla in vita questa frequenza, perché no? Va bene, ripeto, sì, lo so, Daniele anche, infatti è stato lui a dare i miei connotati alla persona appunto che mi aveva invitato, è stato lui stesso a dare i miei connotati e mi hanno subito inserito lì. Comunque si parla anche tramite chat, no? Tramite chat Alghero, va bene, come una cosa bella, dai, una cosa simpatica, non c'è problema. Sì, poi ha fatto col nome di quella ragazza e ce n'è qualche altra anche ragazza, eccetera. Io ancora tutti non li conosco, diciamo quelli più abituati del momento, poi avrò tempo di sentire tutti gli altri, non lo so. Comunque ho visto la lista di quelli che ci sono, perché tramite appunto sempre la pagina sfruttata di WhatsApp eccetera, ho letto più di 45 elementi insomma, che sono tutti facenti parte di quel gruppo lì. È una cosa simpatica, speriamo che vada avanti ancora, perché no? Speriamo bene, avanti Antonio. No, già va avanti, non è che vada indietro, no, ci mancherebbe. Io, la verità, ci ho partecipato e ci partecipo tuttora, ma hai capito, non è che posso stare tutti i giorni, hai capito? Però, quando ci sentiamo. Poi se qualcuno vuole venire a Sassari, come ho fatto l'altra volta, mi sono incontrato, siamo andati bene, siamo divertiti, eccetera, eccetera, capito? Tutto lì. Beh, certo che sì, è un modo come un altro per fare amicizia, certo, come ai vecchi tempi, quando la CB a Sassari e Donne Limitrofe a Sassari, quelle più vicine, i paesi più vicini, si usava fare così, oggi purtroppo non è più così, però diciamo che non è mai troppo tardi per poter ricominciare, no? Non è mai troppo tardi. Vediamo se riprende Marco. Aspetta, ho sentito qualcuno che stava chiamando avanti, chi è? È rientrato, io ho sentito un ciucciù sotto. Mi sembra di aver capito Jonathan, io adesso. Santiago 5-6, avanti amico, mi stava chiamando. Questo non è il ciucciù, questo è un tu. Però avanti chi vuole entrare? Per Sassari? Non lo so, ho capito Jonathan, poi non lo so, è sparito. Altro non posso dire. Vabbè, sì, allora Giulio, ti dicevo, ma era già preesistente un gruppo Sassari, mi ricordo, non so, aveva un nome tipo Amici CB Sassari, non so, Amici, non mi ricordo, Amici della 27 Sassari, una cosa del genere. Avevo detto Antonello, manco lui sapeva che esisteva, era un gruppo che era stato tenuto a suo tempo ben segreto. Ma forse tu stai parlando quello che risale ad una decina di anni fa, infatti penso che esista ancora un qualcosa di documentato su Facebook, o meglio su WhatsApp, non lo so di preciso dove, adesso non me lo ricordo più nemmeno. Comunque era un tentativo che era stato fatto da noi qui a Sassari di istituire appunto un gruppo che poi non è andato avanti, pazienza, non è la fine del mondo, ci mancherebbe altro. Sì, anche da amico di Sant'Orsola c'è, Antonio, anche Danilo c'è, quello di Sant'Orsola. Antonello è morto. Ehi, all'anima, così veloce ha fatto a morire. Ehi, Antonio, caspita, almeno prima ci dovevi salutare, prima di morire. Se non scherziamo, Marco, vabbè, comunque. Vedi tu, Marco, cosa vuoi che ti dica? Mi sta facendo la pipì. Stava cambiando l'acqua alle olive, Antonello. Due secondi, non posso fare la pipì. Tata, Quanto sei piccione, piccione. certo, se l'acqua delle olive vogliono cambiare è meglio andarci subito. Non te la devi trattenere, Antonè. Se no faccio la fine cazzo del coso, mi pigliano che c'ho, come si dice, mi mettono il dito in culo. Non incominciare a scantonare, tu a scantonare con le parole. Ah, Marco, lui già lo ci pensa due volte. Sì, è sboccato, faccio di tanto gli dico, Antonio, il turpiloquio però, sennò davvero non entra nessuno. Cos'è, una seconda ripresa è andata a fare, una seconda gettata, Marco, non è bastata la prima. Magari abbiamo interrotto, vabbè, sta a finire. Vabbè, comunque lì sempre quello il coso, Giulio, bisogna entrare in radio, scendere dalla radio, entrare in radio, poi, però... Quando c'è dispersione su vari canali, cioè il gruppo che se ne va su un canale, il gruppo dell'altro, noi su quest'altro coso, alla fine non c'è coesione, alla fine non decolla per la 27. Quello che volevo dire io era quello, tutto lì. Sì, beh certo, io mi sarei impegnato veramente alla grande se avessi avuto una posizione migliore. Nel senso che io lì ad Alghero arrivo basso, per cui basta che ci sia un po' di QRM che non mi sentono più. Ma persone come te, come Antonello, che siete in altura rispetto a dove sono io, che voi sentite sempre molto bene anche Alghero, lo so benissimo, diciamo che potrebbe essere il giusto per poter cercare di rilanciare il tutto, o perlomeno di incentivare il rilancio, tutto lì, Marco, non certo io con la posizione che mi trovo e poi tra l'altro anche l'antenna molto in basso, lo sai, te l'ho spiegato tante volte, per cui non, cioè da parte mia non è fattibile più di tanto, ecco, a meno che non ci siano più delle giornate che sia proprio assente il QRM, allora sì, ma lo sappiamo benissimo, soprattutto adesso d'estate, quando inizia la propagazione si sa chi può, poi quando piove peggio che mai, se che la storia per me finisce così. Avanti, Marco. Antonello credo che sia rientrato, c'è troppa mondezza in aria, Giulio, troppi disturbi in aria. Una volta anche con un baracchino d'epoca tu ascendevi di notte e c'era un silenzio bello, un silenzio di tomba, non c'era un filo di QRM, adesso lo stesso apparato lo attacchi un'antenna esterna e senti di tutto, troppo QRM elettrico, come si dice, sì, QRM giustamente, QRN è quello naturale, QRM è quello generato dall'uomo, e se no ce ne sarebbe ben poco di QRM, salvo con i temporali o al limite tempeste solari, non lo so. Avevi notato, Giulio, quella bolotto in Spagna, che si hanno avuto roba di 10 ore di blackout, poi è arrivato anche Lisbona, quindi Portogallo, parte della Francia, però non hanno chiarito ancora le cause, chi ha teorizzato l'attacco hacker, chi ha ipotizzato un crollo di quelle infrastrutture tutto green che hanno loro, pannelli solari, tutta roba ecologica in teoria. Poi non ho letto altro e non mi sono aggiornato, quindi sono rimasto a quello, che o non sanno o non vogliono dire qual è stato il problema. Ma io penso che sia stato qualche attentato per poter distruggere una certa parte del mondo, perché non so solamente Spagna, ma in tanti altri posti è successo lo stesso discorso, sempre la stessa giornata, insomma, ecco. E cosa ci vuoi fare? Blackout, poi al buio, milioni e milioni di persone. Va bene, comunque, non so cosa dirti, non ho approfondito la conoscenza del fatto lì, Marco, assolutamente, non ho approfondito, tanto lo sappiamo, sono cose che succedono e poi si risolvono, poi magari poi l'informazione alle volte è anche un pochino fasulla, perché c'è quel giornale che te lo dice in un modo, c'è quell'altro che te lo dice in un altro modo, e dunque per certe cose non lascio spazio io nella mia mente a capire effettivamente e approfondire certe conoscenze, non mi interessa, cose più serie, a parte il fatto che quella è una cosa molto seria, non ci sono dubbi, però sono cose che io penso siano sempre i dinamitardi che creano questi problemi, o Marco. Qualcuno ha fatto il paragone, dice, se succedesse un'eruzione solare veramente catastrofica, gli effetti potrebbero essere quelli, ma diciamo che se l'eruzione solare è talmente catastrofica, penso che non succederebbe solo il blackout. Comunque vabbè, il sole è già bello lontano, non credo che si arrivi a certi livelli. Va bene, vado a bere un attimo. Antonello, riprendi. Vai Marco, dai, aspetto. Antonello non riprende, vi aspetto allora qua. Cazzo, è proprio veloce. Ce l'avevo vicino, un bicchiere d'acqua e me lo sono bevuto. Ti aspetto dopo. Aspetta, è rientrato Antonello, no, ha ripreso in ritardo Giulio, già è qua. Vi lascio, vai Antonello. Sono qua. Aspetta. Così Antonello, stavo dicendo Antonello, io per la posizione che mi ritrovo non è che posso impegnarmi più di tanto per cercare di incentivare quel discorso lì di quel gruppo, perché io molte persone di Alghero non li sento, come tante altre persone non sentono me, dal momento che io sono in una posizione un pochino scadente verso quella parte lì, per vari motivi. Primo, perché ho l'antenna molto bassa. Secondo, perché per l'Alghero, dalla mia zona, non è molto favorevole. Per cui sia in ricezione che in trasmissione ho dei limiti molto, molto evidenti. Mentre invece tu che sei in altura, lì senti bene, Marco lo stesso, che anche lui è in altura, anche lui sente benissimo e sareste le persone più indicate, perlomeno tutti quelli che sentono molto bene, per poter contribuire ad incentivare la funzione del gruppo. Vai Antonio. Sì, ma non c'è niente quello, non c'è niente. Avanti chi è? Questo è avanti. Ciucucciù. Dimmi chi sei a me. Sono a volare, vado almeno. Aspetta, rientro subito, rimetti sempre. Ok. Chi era chi fischiava? Avanti, se riesco a sentirti. Il fischietto l'ho sentito, adesso non so se ti sento la tua voce, vai. Stanno parlando? Io non sento nessuno. No, sai perché? Antonello sta parlando però in PMR. Qualcuno ha fischiato in PMR mentre Antonello credo avesse la portante premuta, forse credevi di averlo sentito sotto di lui, invece era nella sua portante, ecco, nella sua trasmissione, e credo che sia qualcuno da Olmedo, mi pare detto, non so chi moduli da Olmedo, peraltro non è in 27, è in PMR, e poi qua non ricevo nulla, io ho l'antenino interno, quindi ricevo a malapena Pomponio. Ah, ho capito, non sapevo che stesse parlando il PMR, ancora lo usa il PMR, io dove ce l'ho buttato? Da una parte ce l'ho sempre, perché ce l'ho, ma comunque non so quel tempo che non lo accendo. Da Olmedo chi c'è? Un certo Carlo, sarà lui, non so cosa dirti, Marco, che parla anche del gruppo, dai, un certo Carlo di Olmedo, cioè da una stazione fissa di Olmedo. Ah, ma anche il 27 allora parla. O non arriva qua, boh. È certo che parla il 27, io l'ho conosciuto tantissimo tempo fa, ai tempi di quando addirittura era più assiduo Roberto, che entrava anche lui assiduamente in 27, parlavamo assieme, io, lui, Roberto e tanti altri, dai. Sì, sì, infatti lui mi ha chiesto, in chat mi ha chiesto se ero la stessa persona, ho fatto sì, sono sempre io e già mi ricordo di te, eccetera, eccetera, in effetti era così. Vediamo se è rientrato Antonello. No, è ancora su. Mamma mia, arriva basso persino a me. Caspita, proprio filo QRM. Io purtroppo non posso avere più niente lì, se non ho antenne esterne. Comunque sarebbero livello di strada, quindi non ne vale la pena, Giulio. E quindi rinuncio. Come si deve dire livello di strada? Mi stai arrivando 9 più 10, Marco. Non mi sei mai arrivato così forte. Come sarebbe a dire a livello di strada? Tu sei a livello di volo, veramente. No, parlavo dell'antenna PMR, Giulio. Mentre prima io avevo un'antenna UHF piccola nel terrazzino, ma diciamo non proprio a livello di strada, risulta un piano di alzato. Però io roba PMR sul tetto, antenne di quel tipo, non ne ho mai messo, capito? Quindi piuttosto che metterla anche a livello di strada così e non copiare nessuno lo stesso, non ne metto più. Ah beh certo, quello è vero. No, io col gommino dentro casa, diciamo che molte persone sono riuscite a sentirlo, anche da poco, diciamo adesso sarà già quasi un mesetto fa, parlavo con Tino, perché loro erano, su lui e altri due amici erano in PMR, e io così, attenzione a vedere se carica la batteria, come ho acceso ti ho sentito a Tino, sono entrato anch'io, mi sentivo benissimo, sempre nella solita posizione, quando sono seduto sul letto in una posizione, se poi mi sposto anche di un solo metro non li sento più, col PMR e col gommino tranquillo e pacifico, Marco, sentivo benissimo Tino da casa mia. Sì, è come la storia del cellulare, ti ricordi il cellulare con l'antenino che dovevi estrarre, e non solo, ma dovevi cercare quando i punti erano pochi la posizione ottimale per riuscire a fare le telefonate. Sì, che tra l'altro ce l'ho ancora io, quel tipo di telefonino, che è il primissimo telefono che ho avuto, il primissimo cellulare che ho avuto, ce l'ho sempre. Ed è sempre funzionante, anche alcuni giorni fa l'ho trovato, stavo cercando delle cose, l'ho trovato dentro una scatola insieme ad altri telefoni che ne ho avuto diversi e sono tutti funzionanti, però erano sempre quel genere di telefonino, non come quelle di oggi, dai, quelle di oggi è tutto un altro discorso, per cui oggi addirittura parlo dall'orologio, io ti puoi immaginare, faccio una telefonata, sia la chiamata che la risposta dall'orologio, tanto per dirtene una. Quello era il primo telefono, ma sto parlando forse di 30 anni fa, non lo so di preciso, perché ti spiego perché ti dico 30 anni fa, perché quello lì è una bomboniera che mi aveva regalato un mio fiducio, io allora a quel tempo l'avevo cresimato e loro, la famiglia in cambio come regalo mi avevano dato questo telefonino, capito Marco? Ce l'ho sempre, nuovo, funziona alla grande, non c'è problema, solo che è troppo grande, è ingombrante, se te lo metti in tasca è ingombrante. Cappa, vediamo se Antonello è rientrato, attento Pomponio, perché su non c'è. Al momento non lo sento. Ma lui di solito quando è in PMR, di solito è sempre sul canale 1, Antonello. Io lo vediamo adesso col cassetto e lo tolgo qua, se carica la batteria posso mettermi la scopa. Perché anche Antonello lo sento, aspetta, mi sto spostando la sedia, sto facendo un po' di casino. Ecco qua, adesso lo prendo, che qui nel cassetto ce l'ho. il BML, non so se sia ancora a carico, adesso guardo. Vai Marco. Io, vabbè, canale 7, io sapevo il canale 7, 446081 punto qualcosa, vabbè. Sì, punto 25 dovrebbe essere. Vediamo un po' se riesco a trovare quel canale. 4, 4, 6, 081, 0, 8, 1. Vediamo se c'è. Ah sì, già c'è. C'è. Pensa, qua non arrivo allora nemmeno più. Arriva più da te che da me. Sì. Adesso lo chiamo un PMR. Scusa un attimo che lo chiamo. Antonello, mi senti? Sì, Marco, mi sente. Mi sente, ci ho parlato e gli ho detto di tornare alle 27. Qua zero totale, mentre all'inizio l'avevo sentito per un attimo, per due passaggi, ma proprio a filo di QRM, adesso proprio sparito. Sì, appunto, ti stavo dicendo. Io l'ho sentito e lui mi ha sentito. Vabbè, adesso non sa parlare. Non so se riesci a sentirlo. Sì, tramite te si capisce che sta parlando. Eia, va bene, vabbè, se può rientrare, se no. Infatti sta parlando, non so con chi, perché quell'altro non l'ho sentito ancora, ma lui già lo sente. Ma perdizio, da dove sono io? A dove abita Antonello? Guarda che è distante lì. Eppure evidentemente ci deve essere una canalizzazione che va bene. Oh, vabbè, che io ho fatto PMR, mi ricordo benissimo. Con questo PMR qua io ho parlato con Sandro di Porto Torres quando lui era in Corsica per lavoro. Allora lui si trovava intanto in macchina e nella punta più alta della Corsica. Mi ricordo benissimo come se fosse oggi, perciò non c'era da meravigliarsi. Mi sono collegato con Sandro almeno due o tre volte in giorni diversi e non sempre lo stesso giorno. Io quando è che l'avevo sentito in portatile Sandro? Ero andato sul terrazzo di nonno, in Viale Mameli, che è molto più basso di questo di qua. E avevo portato il portatile Intec, che aveva lo Smitter, uno dei pochi PMR, veri PMR con lo Smitter, e Sandro arrivava a 9, naturalmente perché arrivava a 9? Perché era abbastanza performante a dir poco, ecco. Vedete, sì. E poi mi sentivo, ad esempio, quando si trovava Sandro, quando si trovava ad esempio anche a Sentino o a Porto Torres, mi sentivo benissimo, sempre da qui, sempre da qui con questo gommino che è lungo, sarà, diciamo, cosa sarà? Saranno 15 centimetri, non è 15 centimetri di meno, saranno 13 centimetri più o meno ad occhio, così. Comunque funziona bene, nuovo, funziona bene, ma per il tempo che l'ho utilizzato poi lui. Avanti, sì, segnalo. Vediamo se ti ascolta. Aspetta un secondo, quest'anno questa cosa che butta in cazzo. Marco, lo senti? Marco di Olmedo. Sì, lo copio, però per il segnale devo mettere l'altra radio, un attimino solo, Vediamo se mi sente a me. Attento Marco di Olmedo, ascolti Sassari. Ciao Marco, Giulio Dollaro da Sassari. Avanti Marco, ti sento bassino ma già ti sento. Adesso non ti ho sentito, adesso se è salito un po' il QRM non ti ho sentito Marco. Ci fa da ponte Antonello, vai Antonello. 4,5 arrivi. Eccomi. Avanti Marco di Sassari. K. Allora, vediamo se mi copia lui. Attenzione Marco di Olmedo. Olmedo da Sassari Centrale. Sassari Centro, avanti. Allora, Santiago 6, però la radio purtroppo per via della propagazione è bassina, una radio 3 tendente al 2, quindi certe volte non capisco tutto il passaggio, ecco, però arrivi, ecco qua, riprendi Giulio che controllo un attimo qua che vedo che sta salendo troppo la portante, non vorrei che ci fossero stazionarie. No, non ci sono. Vai Giulio. Ok. Marco, l'ultimo passaggio non ti ho sentito, è troppo basso qui da me. Non so se tu riesci ad ascoltarmi, no, mi sembra di sì, perché Antonello mi sembra che mi ha detto che mi sente 4, 5 o 6, boh, non mi ricordo più. Chi sei, Marco, quello che fa parte del gruppo di Alghero, Marco? Antonio, cosa ha detto? Non ho capito. Aspetta, non ho capito neanche io perché mi sono spostato due minuti. Avanti Marco, dimmi. Ha detto che nel gruppo non c'è, se ho capito bene. Ah, ho capito. Vedi Antonio, Marco, vedi qual è, Marco di Sassari, qual è il problema? Essendoci molto QRM, per me ho molte difficoltà a sentire le persone da fuori quando c'è tutto questo QRM, perché io in questo momento ho Santiago 7 di QRM, Marco, sia di Sassari che di Olmedo. Lui non lo so se mi sta ascoltando, se riesce a tirarmi fuori, questo non lo so. Fai la ponte tu, Marco di Sassari, chiediglielo, vai. Allora, qua ho di QRM ho tre con questo apparato, non è male, ogni tanto però di propagazione senti qualcosa di passaggio e è un pochino me lo scura. Però volevo chiedere a Marco, per caso hai anche l'FM? Perché in FM credo che il rapporto segnale-rumore sia molto migliore, dovresti arrivare, di radio dico. Sì, allora se sei pratico, vabbè, in FM saprai che devi regolare lo squelch almeno per silenziare il rumore di fondo, però dovresti arrivare molto meglio. Se volete fare una prova rapida ditelo qui a Sassari. Giulio? Sì, per me va bene, facciamo questa prova rapida, casomai poi torniamo di nuovo qua.